artista, prendere parte a questo varietà è di rara facilità. Basterà firmare il modulo compilato attentamente in ogni sua parte, una giuria qualificata, una giuria che sa, ti fornirà il giudizio che vorrai. Se quel fattore che cerchiamo tu ce l'hai, e se ce l'hai è facile, basta spostare sangue, sudore, passione, talento, un certo compenso sul nostro conto corrente. Gentile artista, questa è la regola, è così che va. Se vuoi cantare, fai riferimento a noi, capiremo potenzialità e ci stileremo rozzamente quello in te che non ci va. Hai per le mani l'opportunità, quella speciale, quella che ti cambierà. Basterà firmare il modulo, prodotto, produttore, quindi faccia, voce e cuore, prendi il tuo talento all'indice di gradimento. Ma io credevo di essere brava. Gioia che sei brava, quasi tanto bella che adesso ce l'ho con te. Avanti il prossimo.